problema è che non, rispetto alla gravità della situazione, non si è avuto il coraggio di affrontare il vero tema della RAI, che è una profonda ristrutturazione industriale del gruppo, dell'unico che poteva puntare anche domani dei risultati positivi. Secondo, a dicembre, quando io votai l'anno scorso, quando io votai no contro il budget di previsione del 2012, si era in scadenza, il rinnovo sarebbe dovuto venire 6 mesi dopo, e quindi probabilmente bisognava dimostrare, c'era il governo Monti, già governo tecnico che teneva d'occhio i conti, bisognava dimostrare che la RAI era stata risanata e quindi che si candidava alla conferma. Io credo che solo questo possa essere avvenuto, perché non credo che la stessa Lorenza lei o il presidente Gariberti non vedessero le cose come le vedevo io, tant'è che poi si sono realizzate le mie previsioni.